Libro di Enoch. Libro 1. Vigilanti. Enoch 1. Enoch, uomo giusto i cui occhi erano stati aperti dal Signore, e vedeva una visione santa nei cieli, parlò e disse: «Questo è quel che gli angeli mi hanno mostrato. Io ascoltai tutto da essi e tutto io conobbi. Io che vedo non per questa generazione, ma per quella che verrà, per le generazioni lontane. Io parlai a proposito degli eletti e parlai, per loro, col santo e grande che uscirà dalla sua sede ed è dominatore del mondo. Di colà egli andrà sul monte Sinai ed apparirà nel suo tabernacolo, nella possanza della sua forza, dal cielo. E tutti temeranno, e tremeranno gli angeli vigilanti, e li prenderà spavento e grande terrore, fino ai confini della terra. E le alte montagne si spaventeranno, si abbasseranno le alte colline e si liquefaranno come cera al fuoco. E la terra sarà sommersa. Tutto quel che in essa perirà e sarà giustizia su tutto e su tutti i giusti. Ma per i giusti, egli farà la pace e proteggerà gli eletti. Su di loro sarà la benevolenza e tutti saranno del Signore, prospereranno, saranno benedetti e la luce di Dio splenderà per loro. Ed ecco, egli è venuto con 10.000 santi, per far giustizia su loro e distruggerà gli empi e redarguirà tutte le umane creature per tutto quel che gli empi ed i peccatori hanno fatto contro di lui. Enoch 2. Ho investigato tutte le operazioni che si fanno nel cielo. In qual modo le stelle non modificano il loro cammino nel cielo, come ognuna sorge e tramonta, sistemate ognuna nel proprio tempo e senza trasgredire il proprio ordine. Osservate la terra e ponete mente a quel che si fa su di essa, dal principio alla fine, come non si modifica ogni azione visibile del Signore. Osservate la stagione asciutta e quella delle piogge, come tutta la terra è piena d'acqua, e nuvola rugiada e pioggia si poggia, no, su di essa. Enoch 3. Ho esaminato ed osservato come appaiono tutti gli alberi, come diventano secchi, come cadono le loro foglie, eccettuati 14 alberi che non si spogliano e che aspettano fino a che, dall'antico, venga il nuovo fogliame, ogni 2 o 3 stagioni delle piogge. Enoch 4. E poi ho osservato il tempo della stagione asciutta, come vi è, al suo inizio, il sole su di essa e voi, a causa del calore del sole, cercate l'ombra e, come, anche la terra, per il gran calore, brucia e voi non potete calpestare, per il gran calore, né essa, né le pietre. Enoch 5. Ho esaminato come gli alberi si coprono del verde delle foglie e fruttificano. Ponete mente a tutto e sappiate in qual modo il Dio vivente ed eterno ha fatto, per voi, tutte queste cose e, come, la sua opera, davanti a lui per ogni anno futuro, e tutte le sue opere gli obbediscono e non divertono dai suoi ordini. E tutto, invece, vien fatto così come il Signore ha stabilito. E osservate come le terre ed i fiumi compiono, insieme, la propria funzione. Voi, invece, non avete adempiuto e non siete sottostati all'ordine del Signore, Ma, lo, avete trasgredito ed avete offeso la sua grandezza con le parole grosse ed aspre della vostra bocca immonda. Aridi di cuore, per voi non ci sarà pace. E perciò, voi maledirete i vostri giorni, sarete privati degli anni della vostra vita, la maledizione eterna aumenterà e, per voi, non vi sarà clemenza. E in quel tempo consegnerete la vostra pace, in maledizione eterna, a tutti i giusti e ad essi, o peccatori, vi malediranno sempre, insieme con gli altri, peccatori. Ma per gli eletti, invece, vi sarà luce, gioia, pace, ed essi erediteranno la terra. Per voi, empi, invece, vi sarà maledizione. E quando agli eletti sarà data la sapienza e tutti loro vivranno e non ripeteranno il peccato, né di empietà, né di superbia, ma si sottometteranno, coloro che avranno sapienza non riprenderanno a peccare e, per tutto il tempo della loro vita, non saranno puniti e non morranno, né per ira, né per castigo divino. Ma completeranno il tempo della loro vita e la loro vita aumenterà nella pace e gli anni della loro felicità aumenteranno in gioia e pace eterna, per tutto il tempo della loro vita. Enoch 6. Ed accadde, da che aumentarono i figli degli uomini, che, in quei tempi nacquero, ad essi, ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, le videro, se ne innamorarono, e dissero fra loro: Venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. E disse loro Seme e Jazza, che era il loro capo: Io temo che può darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò il fio di questo grande peccato. E tutti gli risposero e gli dissero: Giuriamo, tutti noi, e ci impegniamo che non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere. Allora tutti insieme giurarono e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente ed erano, in tutto, 200. E scesero in Ardis, cioè sulla vetta del monte Armon e lo chiamarono monte Armon poiché su esso avevano giurato e si erano scambiati promessa impegnativa. E questi sono i nomi dei loro capi. Semei Jazza, che era il loro capo, Urachi Baramiel, Achibeel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Ezechiel, Surraquial, Asael, Armers, Batral, Anani, Zachebe, Samsauel, Sartael, Turel, Yomiel, Arazael. Questi sono i più importanti dei 200 angeli e, con loro, vi erano tutti gli altri. Parte secondo. Enoch 7. E si presero, per loro, le mogli ed ognuno se ne scelse una e cominciarono a recarsi da loro. E si unirono con loro ed insegnarono ad esse incantesimi e magie e mostrarono loro il taglio di piante e radici. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti la cui statura, per ognuno, era di 3.000 cubiti. Costoro mangiarono tutto il frutto della fatica degli uomini fino a non poterli, gli uomini, più sostentare. E i giganti si voltarono contro di loro per mangiare gli uomini. E cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci e a mangiarsene, fra loro, la loro carne e a berne il sangue. La terra, allora, accusò gli iniqui.

Enoch Slavo 1. Nel Signore benedici, o Maestro. Uomo saggio, grande scriba che il Signore ha accolto per essere spettatore della vita dell'Alto e del Sapientissimo, grande, immutabile e onnipotente Regno di Dio, del Grandissimo, dai molti occhi e immobile trono del Signore, della luminosissima schiera dei servi che sta davanti al Signore e degli ordini potenti, nati dal fuoco, delle milizie celesti ed un indicibile complesso di una grande moltitudine di elementi e di una visione varia, ed un canto ineffabile delle milizie dei cherubini e per essere lo spettatore di una luce senza misura. In quel tempo, disse Enoch, quando ebbi compiuto 365 anni, nel primo mese, nel giorno solenne del primo mese, ero solo nella mia casa. Piangevo e mi affliggevo con i miei occhi. Mentre riposavo nel mio letto dormendo, mi apparvero due uomini grandissimi come mai ne avevo visti sulla terra. Il loro viso era come sole che luce, i loro occhi come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un fuoco, i loro vestiti una diffusione di piume, e le loro braccia come ali d'oro, al capezzale del mio letto. Mi chiamarono col mio nome. Io mi levai dal mio sonno e gli uomini stavano presso di me realmente. Io mi affrettai, mi alzai e mi inchinai loro quattro. Il mio viso si coprì di brina per il terrore. Gli uomini mi dissero, «Coraggio, Enoch, non avere paura. Il Signore Eterno ci ha mandati da te ed ecco tu oggi sali con noi al cielo. Di ai tuoi figli e alle genti della tua casa tutto quello che faranno sulla terra e che nella tua casa nessuno ti cerchi, finché il Signore ti abbia fatto ritornare da loro». Obbedii loro e andai. Chiamai i miei figli Matusalemme e Rigim e raccontai loro tutto ciò che i due uomini mi avevano detto. Enoch Slavo 2. Ecco, o figli, non so dove vado né che cosa mi succederà. E ora, figli miei, non allontanatevi da Dio. Camminate davanti al volto del Signore e conservate i suoi giudizi. Non diminuite il sacrificio, vostra salvezza e il Signore non ridurrà il lavoro delle vostre mani. Non private il Signore di doni e il Signore non priverà voi delle sue acquisizioni nei vostri granai. Benedite il Signore con i primogeniti delle greggi e dei vostri buoi e sarete benedetti dal Signore nei secoli. Non allontanatevi dal Signore né adorate dei vani che non hanno creato né il cielo né la terra. Il Signore raffermi i vostri cuori nel timore di Lui. E ora, figli miei, nessuno mi cerchi finché il Signore mi farà ritornare da voi. Enoch Slavo 3. Accadde che, mentre parlavo ai miei figli, i due uomini mi chiamarono e mi presero sulle loro ali. Mi portarono nel primo cielo e mi posero là. Enoch Slavo 4. Condussero davanti al mio volto i capi, signori degli ordini delle stelle, e questi mi mostrarono i loro movimenti e i loro spostamenti da un tempo a un altro. Mi mostrarono 200 angeli che dominano sulle stelle e sulle combinazioni celesti. Là mi mostrarono un mare grandissimo, più grande del mare terrestre e gli angeli volavano con le loro ali. Enoch Slavo 5. Mi mostrarono i depositi delle nevi e dei ghiacci e gli angeli terribili che custodiscono i depositi. Mi mostrarono là i depositi delle nubi, Di dove esse salgono ed escono. Enoch Slavo 6. Mi mostrarono i depositi della rugiada, come olio d'oliva, e gli angeli che custodivano i loro depositi e il loro aspetto era come ogni fiore della terra. Enoch Slavo 7. Quegli uomini mi presero e mi posarono nel secondo cielo. Mi mostrarono degli incatenati, sorvegliati, colpiti da un giudizio senza misura. La vidi degli angeli condannati che piangevano e dissi agli uomini che erano con me, perché questi sono tormentati? Gli uomini mi risposero, costoro sono appostati dal Signore, che non ascoltano la voce del Signore, ma che si sono fatti consigliare dalla propria volontà. Mi afflissi molto su loro. Gli angeli mi si inchinarono e mi dissero, o uomo di Dio, potessi tu pregare per noi il Signore? Risposi loro e dissi, chi sono io, uomo mortale, per pregare per degli angeli e chissà dove andrò o che cosa mi succederà o chi pregherà per me? Parte terzo. Enoch 12. E fin da prima di tutto ciò, Enoch sparì e non vi era, di tra i figli degli uomini, chi sapesse dove si era nascosto, dove fosse che gli fosse successo. Ed ogni sua azione ai suoi tempi era coi santi e con gli angeli vigilanti. Ed io, Enoch, laudavo il Signore grande, il Re del mondo, ed ecco che gli angeli vigilanti chiamarono me, scriba, e mi dissero, Enoch, scrittore di giustizia, va, annunzia agli angeli vigilanti del cielo che hanno abbandonato il cielo eccelso e la sede santa in eterno e si sono corrotti con le donne ed hanno agito come i figli degli uomini ed hanno tolto, per loro, le donne ed hanno commesso grande corruzione sulla terra e per i quali non vi sarà pace sulla terra né remissione del peccato. Annunzia a loro che essi non si rallegreranno dei loro figli, che vedranno la uccisione dei loro cari, che piangeranno sulla morte dei loro figli e che imploreranno in eterno e non vi sarà, per loro, né perdono né pace. Enoch 13. Ed Enoch passò e disse ad Azazel, non avrai pace. È stata emessa, contro te, una grande condanna, che essa ti leghi. Per te, poiché hai insegnato la violenza e per tutti gli atti di bestemmia, per la violenza ed il peccato che hai mostrati ai figli dell'uomo, non vi sarà requie, intercessione o misericordia. Allora andai e lo dissi a tutti loro riuniti. E tutti loro temettero e li prese timore e spavento. Ed essi mi chiesero che scrivessi, per loro, un appunto di preghiera affinché ottenessero il perdono e che io innalzassi al Signore del cielo tale appunto dato che essi, da quel momento, in conseguenza del loro peccato, per cui erano stati condannati, non potevano parlare ed innalzare gli occhi al cielo. Ed allora scrissi l'appunto della loro preghiera e la loro richiesta di grazia per la loro anima e per ognuna delle loro azioni e per quel che pregavano di ottenere perdono e allontanamento della pena. Io me ne andai e me ne stetti sulle acque di Dan, in Dan che è a destra della regione occidentale di Armon e mi misi a leggere l'appunto della loro preghiera fino a che mi addormentai. E allora mi venne un sogno, caddero su di me delle visioni ed ebbi la visione del castigo divino da dire ai figli del cielo che dovevo rimproverare. Svegliatomi, venni presso di loro, e tutti erano radunati a piangere in Ubleseiel, che trovasi fra Libanos e Senezer, e i loro volti erano velati. E raccontai loro tutte le visioni che avevo avute nel sonno e cominciai a dire queste parole di giustizia e a rimproverare gli angeli vigilanti del cielo. Enoch 14. Questo scritto è la parola di giustizia e di rimprovero degli angeli vigilanti, eterni, così come il Santo e Sommo mi ordinò di dire in quella visione. Io vidi, in sonno, quel che ora dico con lingua di carne e col mio spirito, con la bocca che il Sommo diede agli uomini perché parlino con essa, e con lo spirito che Dio diede agli uomini perché pensino con la mente. Come egli creò e concesse agli uomini di pensare parole di sapienza, così creò anche me e mi concesse di rimproverare gli angeli vigilanti, figli del cielo. Io ho scritto la vostra preghiera e nella mia visione mi è apparso così, che la vostra preghiera non vi gioverà in tutto il tempo dell'eternità e che la condanna è definitiva contro voi e che la vostra preghiera non vi sarà esaudita. Da ora voi non salirete in cielo per l'eternità, ed è stato detto che la condanna vi leghi in terra per l'eternità. Prima di ciò, avrete visto la distruzione dei vostri amati figli, non li avrete più, cadranno di spada al vostro cospetto, e la vostra preghiera in pro loro, ed anche quella in pro vostro, mentre voi piangerete, implorerete o direte alcuna di quelle parole che io ho scritto, non avrà successo. E a me così è apparsa la visione. Ecco, le nuvole, nella visione, mi chiamavano, ed anche la nebbia. Il corso delle stelle e dei fulmini mi incitava a correre e mi premeva ed i venti, nella visione, mi facevano volare e mi incitavano ad aver fretta. E mi portarono su, nel cielo, ed io vi entrai fino ad avvicinarmi a un muro costruito in cristallo. E lingue di fuoco lo circondavano. E ciò cominciò ad incutermi spavento. Io entrai nelle lingue di fuoco e mi avvicinai alla grande casa che era costruita in cristallo. E le pareti di quella casa erano come il mosaico di una tavola pittorica in pezzetti di cristallo ed il pavimento era cristallo. Il soffitto era come il corso delle stelle e dei fulmini. In mezzo a loro vi erano cherubini di fuoco e il loro cielo era acqua. E vi era fuoco che bruciava intorno alle pareti e le porte ardevano per il fuoco. Ed io entrai in quella casa, calda come il fuoco e fredda come neve. E all'interno non vi era nulla, né voluttà né vita. Lo spavento e il timore mi colsero e, agitandomi e temendo, caddi faccia a terra e vidi, nella visione, un'altra casa, maggiore di quella, con tutte le porte aperte innanzi a me, e costruita con lingue di fuoco. E dappertutto vi era molta magnificenza, preziosità e grandezza fino al punto da non poter parlarvi della sua magnificenza e grandezza. Il pavimento era fuoco e, su di esso, fulmine, e il corso delle stelle, ed anche il tetto era fuoco ardente. Io guardai e, all'interno, vidi un alto trono. E il suo aspetto era come cristallo e la sua rotondità come il sole splendente e si udiva la voce dei cherubini. Da sotto al gran trono uscivano fiumi di fuoco ardente, e non era possibile guardarlo. Su di esso sedeva la grande gloria e la sua tunica era più splendente del sole e più bianca di tutte le nevi. E non era possibile, per alcuno degli angeli, entrare. Né, l'aspetto del viso dell'onorato e glorioso era possibile, a qualunque creatura di carne, guardarlo. Fuoco di fuoco ardente era intorno a lui e un gran fuoco gli era innanzi e, delle decine di migliaia che gli erano intorno e davanti, non vi era alcuno che si avvicinasse ed egli, però, non abbisognava di santo consiglio. E i santi che gli erano vicini non si allontanavano né, di notte né, di giorno e non si separavano da lui. Io, fino ad allora, me ne ero stato con un velo sul viso, tremando. E il Signore, con la sua bocca, mi chiamò e mi disse: Enoch, avvicinati qui alla mia santa voce. E mi fece alzare ed avvicinare fino alla porta. Ed io, faccia all'ingiù, guardavo. Enoch 15. Egli mi parlò e, di sua voce, mi disse: Ascolta, non aver paura, Enoch, uomo giusto e scriba di giustizia, avvicinati qui ed ascolta la mia voce. Va dagli angeli vigilanti del cielo che ti hanno mandato a pregare in pro loro e di loro. Conviene che voi preghiate per gli uomini e non gli uomini per voi. Perché avete lasciato il cielo eccelso e santo in eterno e vi siete coricati con le figlie degli uomini ed avete commesso impurità, vi siete prese mogli, avete agito come i figli della terra ed avete generato giganti? E voi, per davvero esseri spirituali, santi e viventi la vita eterna, avete commesso impurità sulle donne, le avete fatte generare col sangue della carne, le avete amate col sangue degli uomini, ed avete fatto come fanno loro, che sono sangue e carne, che sono mortali e distruttibili. E perciò io ho detti loro le donne, affinché semini non su di esse e da esse, così come si fa sulla terra, nascano figli. Ma voi, prima, eravate spirituali, viventi la vita eterna che non muore mai, e perciò io non avevo fatto, anche, per voi, le donne, perché gli esseri spirituali, in verità, hanno la loro sede nel cielo ed ora i giganti che sono nati dal corpo e dalla carne sono chiamati, sulla terra, spiriti malvagi e la loro sede è in terra e dalla loro carne sono usciti spiriti malvagi, perché erano stati creati dall'alto, il loro principio ed il loro primo fondamento era dai santi angeli vigilanti, e sono, invece, diventati, sulla terra, spirito cattivo e son chiamati spirito dei malvagi. Gli spiriti celesti hanno in cielo la loro sede. Quelli terreni, nati sulla terra, l'hanno in terra. E gli spiriti dei giganti, dei nafil oppressori sono corrotti, cadono, sono violenti, fracassano sulla terra, causano dolore, non mangiano alcun cibo, non soffrono sete e non si fanno conoscere, non si elevano. Queste anime, contro i figli degli uomini e contro le donne, perché sono usciti in tempo di uccisioni e di corruzione. Enoch 16. Al tempo della uccisione, della corruzione, della morte dei giganti, quando gli spiriti saranno usciti dai loro corpi, la loro carne porterà distruzione senza essere giudicata. In egual modo essi porteranno distruzione finché si compia il giorno della grande condanna, per sempre, sugli angeli vigilanti e sugli empi. Ed ora di' agli angeli vigilanti che prima stavano in cielo e ti hanno mandato a pregare in pro loro. Voi stavate in cielo e le cose misteriose non vi erano state rese manifeste. Avete appreso un segreto abominevole e, nella durezza del vostro cuore, lo avete raccontato alle donne e, per questo segreto, donne e uomini fanno aumentare la cattiveria sulla terra. Per voi, dunque, non vi sarà pace. Parte quarto. Enoch Slavo 19. Gli uomini mi sollevarono di là e mi fecero salire al sesto cielo. Là vidi sette angeli radunati, brillanti e gloriosi molto, e i loro visi risplendevano come un raggio di sole. Non c'è differenza di viso o di dimensione o di variazione dei vestiti. Questi regolano, insegnano il buon ordine del mondo, il corso delle stelle, del sole e della luna agli angeli che li guidano e agli angeli dei cieli e mettono armonia in tutta la vita celeste. Regolano anche i comandamenti e le istruzioni e la dolce voce dei canti e ogni lode di gloria. Ci sono angeli che sono sopra le stagioni e gli anni, angeli che sono sui fiumi e sui mari, angeli che sono sui frutti e l'erba e tutto ciò che ferve, di vita, e angeli di tutti i popoli. Essi regolano tutta la vita e la scrivono davanti al volto del Signore. In mezzo a loro ci sono sette fenici, sette cherubini e sette angeli, con sei ali che risuonano l'un l'altro con una sola voce e cantano l'un l'altro. Non è possibile raccontare il loro canto e il Signore gioisce di quelli che sono sotto i suoi piedi. Enoch Slavo 8. Gli uomini mi presero di là e mi innalzarono al terzo cielo e mi posero in mezzo al paradiso. Questo luogo è d'una beltà d'aspetto che non si può sapere. Ogni albero è ben fiorito, ogni frutto maturo, ogni cibo è sempre in abbondanza, ogni soffio olezzante. Quattro fiumi scorrono con corso tranquillo accanto a ogni giardino che produce ogni specie buona per il nutrimento. C'è l'albero della vita in questo luogo nel quale il Signore si riposa quando entra nel paradiso e quest'albero è indicibile per la bontà del profumo. C'è un altro albero accanto, un olivo che fa colare continuamente olio. Ogni albero è di buon frutto, là non c'è albero senza frutti e tutto il luogo è benedetto. Degli angeli custodiscono il paradiso, luminosissimi, con voce incessante, con un dolce canto servono Dio ogni giorno. Io dissi, come assai piacevole questo luogo. Enoch Slavo 9. E gli uomini mi risposero, questo luogo, Enoch, è preparato per i giusti che soffrono avversità nella loro vita, affliggono le loro anime, distolgono i loro occhi dall'ingiustizia, fanno un giudizio giusto, cioè danno pane agli affamati, coprono gli ignudi con una veste, rialzano il caduto, aiutano gli offesi. Per coloro che camminano davanti al volto del Signore e servono Lui solo. Per loro è preparato questo luogo in eredità eterna. Enoch Slavo 10. Quegli uomini mi alzarono di là e mi sollevarono nel settentrione del cielo e là mi mostrarono un luogo assai terribile. In quel luogo c'è ogni tormento e supplizio, tenebre e caligine e là non c'è luce, ma un fuoco oscuro che si riaccende continuamente e un fiume di fuoco che avanza contro tutto questo luogo, c'è freddo e gelo, prigioni e angeli cattivi e crudeli che portano un'arma e tormentano senza pietà. Dissi, come assai terribile questo luogo. Gli uomini mi risposero, questo luogo, Enoch, è preparato per gli impii che compiono cose sacrileghe sulla terra, che praticano sortilegi e incantesimi e si gloriano delle loro opere, che rubano segretamente le anime degli uomini, che legati al giogo lo sciolgono, che con l'ingiustizia si arricchiscono delle proprietà altrui, che hanno fatto morire di fame l'affamato pur potendo saziarlo, e, pur potendo vestirli, hanno spogliato quelli che erano nudi, che non hanno riconosciuto il loro creatore, ma hanno adorato dei vani, costruendone le immagini e adorando l'opera delle loro mani. A tutti questi è preparato questo luogo in possesso eterno. Enoch 17. E mi portarono in un luogo dove quelli che c'erano erano come fiamma ardente e, quando volevano, apparivano sotto sembianze umane. E mi portò in un luogo ventoso, su un monte la cui cima arrivava al cielo. E vidi luoghi splendenti e tuoni all'interno. In fondo vi erano archi di fuoco, frecce, le loro faretre, spade di fuoco e tutti i fulmini. E mi portarono fino alla cosiddetta acqua della vita e fino al fuoco di Occidente che è quello che raccoglie tutti i tramonti del sole. E giunsi fino al fiume di fuoco il cui fuoco scorreva come acqua e si versava nel gran mare che si trova verso Occidente. E vidi tutti i grandi fiumi ed arrivai fino alla grande tenebra ed andai dove si muovevano tutti gli esseri di carne. E vidi montagne di caligine della stagione delle piogge e il luogo da cui scaturiscono le acque di tutti gli abissi. E vidi la bocca di tutti i fiumi della terra e quella dell'abisso. Enoch 18. E vidi il serbatoio di tutti i venti e vidi come, con essi, Dio aveva abbellito tutto il creato e vidi anche le fondamenta della terra. E vidi i termini lapidei dei confini della terra e vidi i quattro venti che sostengono la terra ed il firmamento. E vidi come i venti distendevano le parti alte del cielo e stavano fra cielo e terra e facevano da colonne al cielo. E vidi i venti che fanno girare il cielo e che fanno tramontare il disco del sole e tutte le stelle. E vidi i venti che, sulla terra, sostengono le nuvole. E vidi le vie degli angeli e, ai confini della terra, in alto, il firmamento. E passai verso l'austro ed ardeva notte e giorno dalle parti di sette montagne di pietre preziose, tre verso oriente e tre verso la regione australe. E verso oriente, vi erano, quelle di pietra colorata e una era di perle e una era di stibium e quelle verso sud, erano, di pietra rossa. E quella centrale, come trono del Signore, arrivava fino al cielo, era di pietra di alabastro e la sua cima era di zaffiro. E vidi un fuoco ardente che era in tutte le montagne. E vidi, colà, un luogo al di là della grande terra, ove si radunano le acque. E vidi una spaccatura della terra, profonda, in colonne di fuoco del cielo e vidi, nel loro interno, colonne di cielo di fuoco, che discendevano e non si potevano contare, né, verso l'alto né, verso il basso. E sopra quella spaccatura, vidi un luogo senza firmamento sopra né fondamenta terrestri sotto e, al di sopra, non vi era né acqua né uccelli. Era un luogo deserto. E vidi una cosa terribile. Colà, vidi sette stelle come grandi montagne ardenti e come spirito che mi interrogava. E l'angelo mi disse: questo è il luogo della fine del cielo e della terra. È la prigione delle stelle del cielo e dell'esercito celeste. Le stelle che si rotolano sul fuoco, e queste, sono quelle che hanno trasgredito l'ordine del Signore fin da prima del loro sorgere perché non sono arrivate al tempo stabilito per loro. E il Signore si è adirato contro di esse e le ha imprigionate fino alla fine del loro peccato nell'anno del mistero. Enoch 19. E Uriele mi disse: qui stanno gli spiriti degli angeli che si sono uniti con le donne e che, assumendo molti aspetti, hanno reso impuri gli uomini e li inducono in errore sì che essi offrano sacrifici ai demoni come agli dei. Staranno qui fino al giorno del grande giudizio nel quale saranno, fino al loro compimento, condannati. Ed anche le loro donne, avendo fatto errare gli angeli del cielo, sono trattate come i loro amici. Ed io, Enoch, io solo, ho visto la scena, i confini di tutto e non vi è, tra gli uomini, chi abbia visto come ho visto io. Enoch 20. E questi sono i nomi dei santi angeli che vigilavano? Uriele, uno degli angeli santi, quello dei tuoni e del tremore. Raffaele, uno degli angeli santi, quello degli spiriti degli uomini. Raguele, uno degli angeli santi, vendicatore del mondo e delle luci. Michele, uno degli angeli santi, che era comandato sulla bontà degli uomini, sul popolo. Sarcaele, uno degli angeli santi che era preposto sugli spiriti degli uomini che fanno errare gli spiriti. Gabriele, uno degli angeli santi, che era preposto sui serpenti, sul paradiso e sui cherubini. Enoch 21. Ed andai in giro fino al luogo in cui non si faceva alcunché. E vidi colà una cosa tremenda, né cielo sopra né terra alle fondamenta, ma località deserta, che era preparata e tremenda. E colà vidi sette stelle del cielo legate vi sopra, insieme, come grandi montagne e come di fuoco ardente. Allora io dissi: per quale peccato sono state legate? E perché sono state gettate qui? Ed Uriele, uno degli angeli santi, quello che era con me e mi guidava, mi disse: o Enoch, perché domandi, ti informi, chiedi e ti preoccupi. Quelle sono, di fra le stelle, quelle che trasgredirono l'ordine di Dio Altissimo e sono state legate qui fino a che si compiano 10.000 secoli, il numero, cioè, dei giorni, della pena, del loro peccato. E di colà io andai in un altro luogo più tremendo di questo e vidi una cosa tremenda. Un grosso fuoco colà ardente e fiammeggiante e, in esso, una spaccatura la cui fine era fino al fondo, pieno di grandi colonne di fuoco che vi si facevano discendere ed io non potetti osservarne né le misure né